Le parole mi escono dalla bocca a valanga e quando smetto di parlare scoppia un applauso lungo e commosso. Io mi sento leggera, il mio cuore è ancora in tumulto, ma l'ho detto. Pensavano dovessi parlare dei morti, di quei morti recentissimi. No, io invece prendo il microfono tremante e dico: ascoltatevi per favore, anch'io ho qualcosa da dire. Porto un silenzio, tentavo a riconoscere la mia voce, veramente non la riconoscevo, però mi sono fatta coraggio, sono andata avanti. Anch'io ho qualcosa da dire. Sappiate che la mafia non uccide soltanto i morti che noi oggi piangiamo. La mafia uccide da sempre ed ha ucciso anche un giovane di 37 anni che aveva ancora una vita, una famiglia da godersi. Sapete perché? Perché lottava per i diritti dei contadini. Il suo nome è Nicolò Azzotti, io sono la figlia e non l'ho conosciuto. Questo è stato l'inizio del mio percorso, che non è stato più un intimo cammino, no, è diventato un cammino pubblico. Da quel momento è diventato un cammino pubblico che mi ha portato al riscatto della identità di papà, ma anche della mia identità. Io fino a quel momento non avevo mai raccontato la mia storia, perché ero certa di non avere la condivisione da parte di nessuno. Leggo sui tanti volti espressioni di compiacimento e mi sento stretta in un abbraccio di solidarietà mai conosciuto prima. Sono fiera di mio padre e sono fiera di me. Per la prima volta nella mia vita ho trovato il coraggio di parlare pubblicamente di Nicolò Azzotti e di denunciare la mafia assassina. La mia mente corre indietro nel tempo, mi rivedo bambina quando anche per un innocente litigio scoppiato giocando le mie compagne di gioco mi ferivano con tanta cattiveria con frasi come «Buon ufficiro che t'ammazzarono a tuo padre», «Hanno fatto bene ad ammazzare tuo padre», ancora «Un pinnenti se era buono fosse ancora vivi», «Se fosse stata una persona buona sarebbe ancora vivo». Quelle frasi mi annientavano e, distruggendo ogni mia destrezza, riuscivano a umiliarmi. Torno da mio marito con la mente e il cuore colmi di vittoria. Ora lo sento complice e contento di non essere riuscito a bloccare il mio impulso. Antonina mi sussurra all'orecchio: «Non avevo capito, perdonami». So che non è molto quello che ho detto, ma per me è un significato enorme. Ho aperto uno spiraglio di luce sul nome di papà, rimasto per quasi mezzo secolo nel buio. Rimango lì dopo che la gente si allontana e disperde. Mio marito capisce e mi sta vicino in silenzio. Una volta a casa lui racconta tutto ai nostri figli, Alberto e Gabriele, che ascoltano seri e increduli. Improvvisamente mi sento stretta in un forte abbraccio che quasi mi toglie il respiro. È Alberto che mi dice: «Mamma, sono orgoglioso di te e sono certo che se non l'avessi fatto te ne saresti pentita». Tu mi chiedi chi era al corrente? Pochi. Devo dire pochi, mai le mie colleghe seppero di questo mio passato. Io ho avuto 35 anni di insegnamento. Ebbene, la mia vicenda è venuta fuori solo al gesimo del 1992. Mai nessuno era stato messo al corrente. Anche mio marito e i miei figli meno, ma mio marito di più, perché certamente ho avuto più occasione di intimità. Mio marito conosceva la mia storia, non perché io la volessi tacere, ma soltanto fino a un certo punto. Tante volte io mi ero messa a raccontargliela, ma arrivavo a un certo punto, poi ero sopraffatta dai singhiozzi, dal dolore, dal pianto. Anche lui piangeva presso a me, per cui io mi fermavo. L'approvazione e l'ammirazione dei miei figli e di mio marito di quel giorno mi danno un motivo in più per essere soddisfatta. Per me è una vittoria. Probabilmente è proprio una vittoria su me stessa. Per la prima volta ho dato voce ai miei pensieri, pensieri antichi e muti che non avevo mai manifestato a nessuno. Ma quante volte ho sentito la mia voce gridarmi dentro: devi fare qualcosa per tuo padre, tu sei la sola che può farlo, perciò devi. Perfettamente cosciente che il peso di tale responsabilità fosse un fatto tutto mio, esclusivamente mio, mille volte mi ero chiesta: ma cosa devo fare e come lo devo fare? Mi ero sentita sempre impotente e incapace, e ora assaporo questo squarcio di luce giunto inaspettato e improvviso. Il nostro dolore era un dolore coltivato soltanto dentro le pareti domestiche.

Come si cresce in terra di Sicilia alla fine degli anni 40, quando tuo padre è stato freddato da 5 colpi di pistola sparati da una mano che ha deciso di pulirlo per motivi mafiosi, perché cercava di rendere giustizia ai poveri, ai contadini, alle persone che avevano di meno. Lui, sindacalista, lui falegname, che aveva 2 figli, Antonina e Pinuccio, e una moglie, era giovanissimo, viene freddato davanti alla porta di casa. In questo episodio Antonina ci racconta un particolare della sua vita, che è quello della scuola, e lei e suo fratello studiano e sono dei ragazzi per bene, in gamba e capaci, ma questo non basta a levare via e a lavare via il dolore. Hanno fatto quello che hanno potuto loro, poverini. Se tu pensi che hanno avuto questa forza in quella realtà per un certo tempo, è chiaro che poi si devono arrendere. Se passavano davanti a casa mia, si fermavano davanti alla porta, parlavano con mamma un poco, ricordavano per qualche episodio che cosa figura di papà, ci rivolgevano uno sguardo certo di compassione e di condivisione, e questo già per noi era tanto, non potevano di più. Dolore e stenti, rinunzie e patimenti erano i nostri quotidiani compagni di vita. Se papà aveva pagato la sua colpa in un'unica soluzione, morendo, noi continuavamo a saldare quel conto ogni giorno, vivendo. Ma da quell'atroce sofferenza traeva nutrimento e vigore anche l'unica nostra ricchezza, l'amore immenso che ci legava e sosteneva. «Aranci, aranci, culi fali guai, si li canci», continuava qualcuno a ripetere alla mamma con puntuale solerzia. Perché ricordarcelo? Noi sapevamo bene che la disgrazia era nostra e da soli dovevamo sbrigarcela. Nessuno avrebbe potuto fare qualcosa per noi. L'omicidio plateale alla vigilia di Natale di Nicola Azzotti era servito a dimostrare che la mafia era forte, che bisognava fare quello che la mafia voleva e che se qualcuno non fosse stato a queste regole avrebbe potuto pagare come Cola Azzotti aveva pagato. Era stato un omicidio dimostrativo e aveva sortito l'effetto di terrorizzare tutti. Noi eravamo condannati all'isolamento. Ogni giorno morivamo un po' di più nelle nostre privazioni, nel nostro lutto, nella nostra emarginazione. Morivamo nella nostra solitudine ed eravamo colpevoli, insieme a papà, di essere vittime. Tra tante persone indifferenti a noi, chiunque ci rivolgesse una parola di conforto, per me è una persona indimenticabile e che tengo ancora nel cuore. Le zie erano questo per noi. Ci mandavano sempre delle lettere, ci seguivano, si incoraggiavano la mamma e dicevano devi andare avanti, Mimì. Cola avevo sempre te sulle labbra quando veniva qui a Catania, non si abitava a Catania, e parlavo sempre di te, dei bambini. Tu non puoi deluderlo, tu devi seguire i bambini, devi fare la parte tua di mamma, ma devi fare anche la parte sua. Quindi non ti puoi permettere di lasciarti andare. E tutto questo certo dava sostegno alla mamma, perché quando razionalmente era così, però la mamma allora era tanto debole, era tanto vulnerabile, era tanto distrutta dal dolore, devastata, per cui tante volte dimenticava, però non ci venivano meno mai le raccomandazioni delle zie. La zia Ninetta e la zia Carmela erano le sorelle di papà. Entrambe, dopo essersi diplomate ostetriche, si erano sposate, stabilendosi l'una a Calamanoci, in provincia di Agrigento, l'altra a Catania. Loro ci sono state molto vicine e il loro conforto era dettato da sentimenti di reale affetto per noi. Ma i guai e i problemi quotidiani erano e rimanevano soltanto nostri. Qualcuno diceva a mia madre: «Fortunata sei, chi ce li ha 2 figli come i tuoi, ubbidienti, bravi, studiosi». Ma noi avremmo voluto che il nostro papà ci fosse accanto anche solo per poco tempo e con lui vicino essere meno bravi, meno studiosi, meno ubbidienti. Ma non si poteva scegliere. Nella nostra vita c'era posto soltanto per il dovere e presto dovemmo imparare ad essere esigenti e intransigenti con noi stessi, sempre pronti a dare il massimo e senza sconti. Tra i doveri c'era quello di essere sempre promossi e ci riuscivamo. Pinuccio aveva iniziato a frequentare la prima classe elementare nell'ottobre del 1946, 3 mesi prima che papà morisse. Nella mia famiglia la scuola è sempre stata tenuta in grande considerazione e mio fratello, nel nuovo ruolo di scolaro, era stato seguito, ahimè solo per poco, con molta attenzione da papà. Lui sapeva bene quanto l'ignoranza inchiodasse all'arretratezza, impedendo progresso e libertà. Lui